Ulisse, Odisseo se proprio volete essere precisi, era uno che, come sappiamo tutti, viaggiava. E anche se nella versione originale non viaggiava esattamente per fare del turismo, e neanche perché desiderasse particolarmente conoscere nuove genti e costumi diversi, lui voleva soprattutto tornarsene a casa sua, e non ci riusciva mai, e nonostante questo è diventato da tempo l'eroe eponimo dei giramondo, di quanti alimentano di viaggi e peregrinazioni la loro insaziabile curiosità. In termini contemporanei, di chiunque senta l'irresistibile impulso di andarsene a zonzo per il pianeta, si potrà dire che soffre della sindrome di Ulisse, che è sì un'espressione assai goffa, inutilmente erudita, e induce anche a malinconiche riflessioni sul destino di tanti eroi della mitologia classica, chiamati oggi in causa a denominare sindromi e complessi che sono soltanto nostri, ma almeno ne perpetua onorevolmente il nome. A Edipo poveraccio, in fondo, è andata molto peggio. Peggio, ma non quanto a Tersite. Tersite, Tersite lo ricorderete, è uno dei pochi personaggi davvero simpatici di tutti i poemi omerici. È brutto, d'accordo, non è un Adone, è camuso, è zoppo di un piede, ha le spalle torte, curve rientranti sul petto, e il cranio aguzzo in cima al quale rado il pelo fioriva, come traduce la Calzacchi Onesti, ma non è colpa sua, in fondo. E d'altronde già Luciano di Samosata faceva osservare che questi sono difetti affatto passeggeri, nell'oltretomba nulla lo distinguerà da Nereo, il più bello di quanti argivi vennero per combattere sotto le mura di Troia. In compenso, benché brutto, non si può negare che Tersite sia libero di spirito. Prende la parola nell'assemblea del secondo canto, come suo diritto di combattente, e dice di Agamennone quello che pensano tutti, Omero compreso, che è soltanto uno sbruffone e uno sfruttatore, uso arricchirsi alle spalle degli altri, e per di più ha messo a repentaglio le sorti della spedizione comune offendendo Achille, che è molto migliore di lui, per cui se proprio ci tiene tanto a recuperare la cognata dal letto di Paride, prosegua pure l'assedio per conto suo se ci riesce. Che sono sagge e ragionevoli considerazioni dopo 10 anni di guerra durissima ed incerto esito, e non importa se, come succede a molti antesignani del libero pensiero, nessuno gli dà retta, e anzi il buon Ulisse, che qui nell'Iliade ha piuttosto la parte del paraculo, gli assesta un flacco di vegnate, e sono appunto cose che capitano. E sapete qual è la sindrome di Tersite? Non è quella di chi, spinto d'amore per la verità e sprezzo per il pericolo, voglia dire sempre comunque la sua, che saremmo tutti d'accordo, ma è, come apprendo dalla Stampa, dal Corriere della Sera del 31 maggio, la trasformazione negativa di quella di Ulisse. È la sindrome del brutto e del cattivo, che per stuprare, violentare e distruggere è spinto dalla pulsione esplorativa che si traduce in una pulsione di distruzione. Di questa brutta malattia sono massimamente affetti i nostri connazionali in vacanza, perché quando in vacanza nei paesi esotici soprattutto sembra che proprio tendano a farne di tutti i colori, sesso a pagamento come piovesse nelle varianti più perverse che si possono immaginare, imprudenze e trasgressioni di ogni tipo, nessun rispetto per i luoghi che visitano e le relative culture. Se ne è parlato con giusta riprovazione al recente congresso nazionale di medicina del turismo alle Stelline qua a Milano, e se ve lo siete perduti, non potete che dar la colpa a voi stessi. Va bene, d'accordo, ma che cavolo c'entra Tersite, mi chiederete? Non c'entra niente, è ovvio che non c'entra assolutamente niente. Di controparti negative di Ulisse i poemi omerici ne presentano ben altro, e tutte più adatte di lui a incarnare il prototipo di chi va in giro per far danni. Il nome di Tersite è usato come sinonimo e basta, per non dire semplicemente la sindrome del brutto e cattivo, che suonerebbe forse più banale e certamente meno scientifico. Ma ammetterete che è una scelta che lascia molto perplessi, insomma. Almeno finché non si scopre che a coniare il termine è stato quel gigante della psichiatria e maestro dei Volta Gabbana che è il celebre Alessandro Meluzzi, docente a Torino, senatore di Forza Italia, quello che ci ha afflitto tanto dai teleschermi durante la passata legislatura. Di fronte al suo nome si chiarisce tutto. Per uno come lui, si capisce che non possa esistere immagine più esecrabile di quella di chi nega il suo ossequio ai potenti.